Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Il progetto dei Tre Mari, una via della seta ma molto più europea. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. 12 nations established the Three Seas Initiative to boost the region's energy security and infrastructure connectivity between the Adriatic, Baltic and Black Seas. On behalf of the American people, let me say that we stand with the Three Seas Nations. Beautiful nations, by the way. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e ascoltatori. 16:09 minuti, 9 secondi, inizia un nuovo viaggio di Nessun Luogo Lontano. Ad accompagnarvi Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in regia come sempre Valeria Bernardi. Durante questo viaggio potrete commentare o porre domande via SMS e WhatsApp, il numero è 349-238-6666. Lo potete fare anche attraverso i social, Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Il punto di vista che vi proponiamo quest'oggi potrebbe essere per alcuni di voi dirompente. Il mondo non è più fatto di stati e confini, o meglio, lo è ancora, ma per capire cosa veramente sta accadendo è utile cambiare punto di vista e vederlo come insieme di hub, come reti di infrastrutture, di collegamenti, flussi, scambi di denaro e di servizi, flussi di materie prime, di informazioni che collegano e tengono unite realtà anche assai diverse tra loro. Anche le vecchie mappe hanno quasi perso di senso nella nuova globalizzazione. Così riflettere su giganteschi progetti e linee di collegamento come per esempio la Via della Seta, ma anche quello che vi racconteremo quest'oggi, è davvero utile per capire dove sta andando il mondo. Quest'oggi vi racconteremo un progetto che nasce nel 2015, il Three Seas Initiative, tre mari, 12 stati e la promessa in qualche modo di isolare Russia e Cina e flirtare con gli Stati Uniti. Ma in tutto ciò l'Italia come messa? Questo è il tema di quest'oggi, 349-238-6666, noi intanto sfogliamo i nostri dossier. Il primo ci porta in Nagorno-Karabakh perché il ministro degli esteri azero Bayramov ha in programma un incontro a Washington il 23 ottobre, andrà a incontrare il segretario di Stato Mike Pompeo, così come gli altri rappresentanti degli stati che presiedono il gruppo di Minsk dell'OSCE per cercare di mettere fine al conflitto in Nagorno-Karabakh, un conflitto che ha visto una serie di dichiarate e presunte tregue, ma in realtà rispettate. Secondo il Ministero della Difesa del Nagorno-Karabakh, altri 43 dei suoi combattenti sarebbero morti nel conflitto contro le truppe azere. Secondo i separatisti sono saliti a 772 e caduti tra le loro fila. E a questo punto vedremo se anche questo incontro, magari con la presenza di Mike Pompeo e il peso massimo statunitense, forse riuscirà a far sentire la voce, la propria voce, la diplomazia. E come avevamo previsto, ma questo non per autocitarci, stanno continuando le proteste in Nigeria contro la brutalità della polizia. Ricorderete, abbiamo dedicato ampio spazio a quella che era la protesta End SARS Now, niente a che vedere col Covid, piuttosto lo smantellamento di quella squadra antirapina, SARS appunto, questo è l'acronimo, che si era macchiato di vari crimini. Nonostante tutto ciò, le proteste stanno andando avanti perché questo non basta ai cittadini nigeriani. In particolare adesso a Lagos è scattato il coprifuoco perché le proteste di piazza continuano a farsi sempre pacifiche, però sempre più forti e più in generale, come dicevo, avevamo previsto, stanno, come dire, convogliando tutte le anime più democratiche di spirito civile dei nigeriani contro questo governo. Sono ormai 2 settimane che la Nigeria è scossa da questa ondata di proteste. Sostanzialmente tutte le forze di polizia, ma anche l'esercito, sono nel mirino dei cittadini nigeriani. E staremo a vedere, perché abbiamo ancora una volta la sensazione che questo movimento, non vogliamo esagerare nel dire che potrebbe essere una primavera africana, però ha tutte le caratteristiche connotati per forse porre una cesura nella lunga storia africana fatta di enorme fragilità e corruzione delle forze di sicurezza e polizie. A proposito di fragilità africana, stavolta vi porto in Nord Kivu, regione dell'est del Congo. Più di 900 prigionieri sono fuggiti da una prigione nella città di Beni, siamo nel nord del Nord Kivu, e sono stati liberati da una milizia islamista, ADF-NALU, questo l'acronimo che arriva dall'Uganda, si è formato alcuni anni fa, ma che negli ultimi anni ha intensificato i propri attacchi e tanti grattacapi dà soprattutto alla popolazione civile. E questa liberazione, 900 prigionieri, è molto molto alta. In realtà, secondo alcune fonti, tra cui vedo Al Jazeera, sarebbero più di 1200, però dovete immaginare che 1200 potenziali combattenti in un territorio impervio, fatto come quello del Nord Kivu, fatto di montagne, fatto di giungla, possono essere a tutti gli effetti un esercito capace di conquistare tranquillamente tutta quella regione che, ricordiamo, è molto molto ricca di materie prime. Infine, un'altra notizia di carattere strettamente militare. Il mese prossimo l'Australia prenderà parte alle esercitazioni militari chiamate Malabar tra il Mar Arabico e il Golfo del Bengala, unendosi al trio India, Giappone, Stati Uniti. Tutti attori accomunati da cosa? Beh, dalla preoccupazione della crescente influenza cinese. Il ministro della difesa australiano Linda Reynolds ha dichiarato che le esercitazioni riguardano la dimostrazione della nostra determinazione collettiva a sostenere l'apertura e la prosperità nella regione Indo-Pacifica. Come sapete, e come vi abbiamo spesso raccontato, è in corso un braccio di ferro ormai che dura da anni tra zone di influenza in senso lato geopolitico, proprio tra la Cina e l'Australia in quei mari. E il tutto arriva evidentemente in un momento di altissime tensioni. Se andiamo a vedere i quadranti coinvolti in quella zona, oltre a Cina-Australia c'è Cina-Taiwan, coinvolti anche gli Stati Uniti, ovviamente c'è sempre il nodo Hong Kong. Insomma, è un momento in cui le esercitazioni militari diventano in qualche modo uno specchio immediato, molto plastico, di quelli che sono i conflitti e gli attriti politici. Infine, una notizia che ci porta da Washington a Khartoum, perché il presidente Trump ha twittato che si è raggiunto un accordo per il risarcimento alle vittime del terrorismo da parte del Sudan, che è governato da un regime transitorio dopo la dipartita di Omar al-Bashir. Quindi il Sudan potrebbe essere tolto dalla lista nera dei paesi terroristi, ne ha dato annuncio il presidente Trump e ha risposto immediatamente il presidente ad interim sudanese, manifestando la propria gioia e il proprio giubilo. Questi sono i nostri dossier internazionali, fatti, notizie, spunti che diventeranno prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Adesso però con Valeria Bernardi proviamo a fare questo lungo viaggio dal Mar Nero fino al Mar Baltico per una via della seta europea che promette, almeno sulla carta o almeno sui mari, di arginare lo strapotere cinese. Come vi dicevo in apertura di questa puntata, e sempre tenendo fra le mani un libro interessantissimo, lo abbiamo già citato altre volte, Connectography di Parag Khan, grandissimo geografo indiano, sottotitolo Le mappe del futuro ordine mondiale. Considerare il mondo fatto di stati e confini è riduttivo perché non ci dà invece la dimensione, l'idea di quanto i flussi economici di uomini, di mezzi, di armi stiano riplasmando l'ordine a tutti gli effetti. Forse l'esempio più eclatante è evidentemente quella gigantesca opera infrastrutturale, appunto la Via della Seta, che Xi Jinping annunciò qualche anno fa e che adesso per il momento sta leggermente arrancando, perché complice per esempio il Covid-19, un Pakistan per esempio che non riesce a rientrare dei prestiti da 30 miliardi proprio a causa del Covid. E certo, e tutto questo citando il rapporto China Global Investment Tracker stilato da American Enterprise Institute, il valore degli investimenti cinesi nella Belt and Road Initiative è calato drasticamente nel 2020 rispetto al 2019. Questo naturalmente, Covid a parte, non va a minare, a intaccare quella che è una tendenza mondiale, cioè collegarsi sempre di più. Ma con quali conseguenze per i singoli stati? E sarà il secondo e successivo passo anche per le città, perché c'è il rischio che questa nuova iperconnessione vada a riplasmare anche in maniera fisica, in maniera molto evidente, le città nelle quali noi viviamo. Allora, ve lo dicevo, è un vero e proprio viaggio dal Mar Nero al Mar Baltico. Abbiamo provato a sintetizzarlo in 90 secondi. Promossa nel 2015 dal presidente polacco Andrzej Duda, la Three Seas Initiative si pone l'obiettivo di integrare le regioni del Baltico, dell'Adriatico e del Mar Nero su tre piani: energetico, digitale e dei trasporti. Grazie alle affinità culturali e ad un passato comune e sfruttando l'asse nord-sud, il progetto intende raggiungere la sicurezza energetica, una solida crescita economica e una Europa più coesa, scardinando definitivamente gli ultimi lasciti della cortina di ferro. I 12 paesi coinvolti rappresentano il 28% del territorio dell'Unione Europea e il 22% della popolazione, ma contribuiscono solo al 10% del PIL dell'Unione. A finanziare l'iniziativa c'è un fondo di investimenti dedicato che, nonostante i ritardi nei pagamenti di alcuni paesi membri, ha registrato un importante impulso da parte degli Stati Uniti. Nel febbraio 2020, Washington ha promesso un primo investimento da $1 miliardo nel progetto. Questa è la Three Seas Initiative, il progetto dei tre mari, un progetto che in realtà va, se andiamo a vedere e a recuperare anche alcuni cenni storici, va a recuperare alcune omogeneità, ecco, mettiamola così, di qualche secolo fa, alcune aree geografiche che erano magari tenute insieme da imperi poi che si sono dissolti. Un progetto ambizioso, un progetto che soprattutto, avete sentito in chiusura, finanziato dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stessi non nascondono l'importanza strategica. Qual è l'importanza? Beh, è molto semplice, ve la faccio dire dal segretario di Stato Mike Pompeo. Abbiamo l'opportunità di connettere e integrare le nostre infrastrutture e i nostri mercati energetici in un modo che garantirà sicurezza economica per le generazioni a venire. Abbiamo l'opportunità di mantenere le nazioni europee forti, libere e alleate con gli Stati Uniti. Un'iniziativa dei tre mari, ben finanziata e orientata all'azione, aiuterà a raggiungere tutti questi obiettivi condivisi. Questa è la voce del segretario di Stato statunitense Mike Pompeo, adesso la voce di Alessandro Areso, a cui do il buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano, che è direttore scientifico della Scuola di Politica e consigliere scientifico di Limes e ha scritto Le potenze del capitalismo politico, la nave di Teseo. Direttore Areso, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Salve, salve, buonasera a voi. Allora, abbiamo sentito le dichiarazioni del segretario di Stato Mike Pompeo, abbiamo sentito quel miliardo che in realtà, a ben vedere, pensando a ben altri investimenti, quelli della Via della Seta, sembrano bruscolini, però è un segnale importante per due motivi. Da un lato ci dà una tendenza, che è quella del mondo, fotografata benissimo dal grande studioso indiano Parag Khanna con Ethnography, per esempio, giusto per citarne uno. Dall'altro ci dà anche la dimensione dei timori degli Stati Uniti rispetto a quelle che sono le azioni soprattutto di Mosca e Pechino. Ecco, come si sta ridisegnando il mondo? Che cosa significa andare a creare queste enormi infrastrutture che aggregano, mettono insieme, uniscono, collegano gli stati? Beh, le infrastrutture di cui parliamo sono diverse, sono dei formati di reti che troviamo in diverso modo attraverso delle alleanze variabili nel pianeta. Dobbiamo dimenticare che ci sono delle reti già nel pianeta, delle reti molto importanti, per esempio sull'intelligence e la sicurezza, i Five Eyes dal punto di vista dell'intelligence, la sicurezza, il formato Quad in Asia, che oltre agli Stati Uniti e all'Australia coinvolge anche il Giappone e l'India. Ora vediamo, diciamo, un proliferare di queste reti e del rilievo di queste reti anche per la risposta, come lei diceva, a al progetto cinese della Belt and Road Initiative e anche delle difficoltà che ha incontrato questo progetto. Quindi c'è una competizione tra diverse reti che stanno a contrapporsi a, diciamo, delle velleità imperiali di alcuni stati e di alcuni paesi. Quindi non direi che il mondo degli stati è finito, ma diciamo a questo mondo degli stati bisogna sempre affiancare quello degli impulsi e delle velleità imperiali rispetto alle quali altre potenze decidono di portare avanti delle azioni di contrasto che poi devono anche stare sul mercato ed essere in grado di portare avanti dei progetti che poi vanno eseguiti. E questo tema dell'esecuzione dei progetti, della loro difficile esecuzione dei progetti, probabilmente ce lo portiamo avanti se guardiamo tantissimi di questi progetti, perché una cosa è l'annuncio, come è stato mostrato dalle stesse Via della Seta, e una cosa è poi la capacità reale di costruire questa connettività. Sì, la voce che state ascoltando è quella di Alessandro Aresu, direttore scientifico della Scuola di Politiche e consigliere scientifico di Limes. Ricordo il suo ultimo libro, Le potenze del capitalismo politico, edito dalla Nave di Teseo. Ci sta aiutando a mettere a fuoco quella che è forse una delle più grandi tendenze del mondo attualmente, cioè non leggerlo più come insieme di stati, forse buttare via la vecchia cartografia, provare a focalizzarsi su quelli che sono i nodi, gli hub, per esempio la crescente importanza degli aeroporti, dei porti, pensate solamente alla querella sui porti italiani riguardo alla Via della Seta, quindi flussi finanziari, flussi di informazioni e così via, e non soltanto appunto stati e confini. Alessandro Aresu poneva anche l'accento su quello che è l'aspetto antitetico rispetto alla Via della Seta e non solo della Three Seas Initiative. Ancora la voce di Mike Pompeo, sentite. Right now, as we sit here. Proprio adesso, mentre siamo qui seduti, regimi autoritari a Mosca e a Pechino stanno firmando accordi infrastrutturali per avere un vantaggio strategico ed economico contro il mondo libero. È il caso del Nord Stream 2 e dei disastrosi effetti degli accordi infrastrutturali finanziati dalla Cina, dal Laos al Montenegro, passando per il Pakistan. L'iniziativa dei Tre Mari è di grande importanza ora, molto più di 5 anni fa. Gli Stati Uniti non intendono vedere poteri autoritari compromettere la sovranità e la libertà dei nostri alleati del mondo libero. Così, molto chiaro, molto diretto, il segretario di Stato Mike Pompeo per sottolineare la valenza geostrategica di questa enorme iniziativa, quella dei Three Seas, dei Tre Mari, dal Mar Nero al Mar Baltico, appunto coinvolgendo 12 paesi dell'Unione Europea, in parte il gruppo Visegrad, ma non solo. Ecco, un'Europa, un gruppo, diciamo, nel quale manca l'Italia. È interessante notare che viene coinvolto il mare Adriatico, quello settentrionale, grazie ovviamente all'esposizione sul mare della Croazia, ma l'Italia no. E lì magari il porto di Trieste avrebbe potuto dire qualcosa, ma evidentemente l'Italia è percepita, e non a torto, come già interessata, già parte della Belt and Road Initiative. Questo può essere un problema per l'Italia, e lo chiedo a Alessandro Aresu. No, secondo me non è un problema, perché l'adesione frettolosa e a mio avviso comunque sbagliata dell'Italia alla Belt and Road Initiative non ha portato un riallineamento strategico. C'è stato una retromarcia abbastanza netta, quindi l'Italia ha commesso questo errore di adesione simbolica, ma come mostrano anche le recenti vicende del porto di Trieste, quando l'Italia ha degli asset importanti come questo porto con la sua storia, col suo carico, e poi sono in grado di attirare anche altri investitori, non soltanto i cinesi. In questo caso si è trattato per la piattaforma logistica di un investitore tedesco, e questo può succedere anche per altro, e potrebbe esserci anche una forma di avvicinamento italiano a questo progetto. D'altra parte, per gli interessi italiani non dovremmo dimenticare che c'è anche un'altra rete che dovrebbe dovrebbe interessare all'Italia, che è quella della rete Euromed 7, ovvero sono i paesi mediterranei come Francia, Italia, Spagna, Grecia, Portogallo, Malta e Cipro, che hanno cominciato a collaborare di più, soprattutto in ottica antiturca, sotto l'impulso della Francia. Diciamo che se l'Italia affiancasse alla Three Seas Initiative, che già esiste, un progetto forte anche sulle infrastrutture e il digitale sulla base di Euromed 7, a questo punto da questo punto di vista avremmo due carte, e nessuna di queste due è la Belt and Road Initiative, che probabilmente finirà nel dimenticatoio per quanto riguarda il nostro paese. Vabbè, insomma, questa è una previsione forte, quella che fa Alessandro Aresu, direttore scientifico della Scuola di Politica e consigliere scientifico di Limes, perché è stata presentata, almeno nel suo arrivo italiano, in pompa magna. Un po' di ascoltatori al 349-238-6666, ma quando scade questo mutuo con gli Stati Uniti d'America? Pompeo chiacchiera tanto, scrive Francesco, ma la verità è una sola: finché la Cina faceva le magliette a bassissimo costo andava bene, adesso che un competitor globale, tecnologico e finanziario non gli sta più bene, e no amico mio, così chiude l'ascoltatore. Però ci sta, gentile Francesco, c'è un'evoluzione, c'è una crescita, c'è un ridisegno degli assetti politici, e quindi ci sta anche cambiare approccio rispetto ai diversi attori, e questi grandi progetti, reti infrastrutturali in senso lato, sicuramente vanno a ridisegnare i rapporti. Alessandro Aresu, le faccio sentire la voce di Lauri Kusing, che è consigliera agli affari esteri della presidente estone Kersti Kaljulaid. Andrea Macchioni l'ha appena raggiunta e gli ha chiesto qual è il ruolo dell'Estonia in questa iniziativa dei Tre Mari. Sentite. We have made a lot of progress over the past year. We have established a technical secretariat that coordinates the initiative. Abbiamo fatto molti progressi durante lo scorso anno, dice. È stata creata una segreteria tecnica che coordina l'iniziativa. Si tratta del centro dove vengono organizzati i summit politici e forum economici. Abbiamo fatto soprattutto enormi progressi, prosegue Lauri Kusing, con il fondo di investimento della Three Seas Initiative. È uno strumento ulteriore per portare capitali nella regione. Il fondo ha un'ispirazione politica, ma si basa al 100% su criteri economici. Uno dei suoi obiettivi è dimostrare che i fondi privati possono essere usati per lo sviluppo della regione. Il denaro che arriva dal fondo è addizionale rispetto a quelle che le nazioni coinvolte versano e i fondi UE. E questa è la voce di Lauri Kusing, consigliere agli affari esteri della presidente estone Kersti Kaljulaid. Ricordiamo che questa Three Seas Initiative è proprio attrazione estone ed è anche particolarmente evidente dal loro sito e dalla presentazione. Siamo però con Alessandro Aresu, direttore scientifico Scuola di Politiche, consigliere scientifico di Limes. Aresu, proporrei, facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come sta reagendo la borsa in queste turbolente giornate e ore, e poi apriamo la seconda parte. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano ci sganciamo per un attimo dalla strettissima attualità, anche se in realtà, come dire, un cotè piuttosto caldo c'è, perché la Three Seas Initiative, quella grande idea di progetto infrastrutturale che dovrebbe collegare il Mar Nero al Mar Baltico, quindi correre da sud a nord in quello che è tutto l'est Europa, dovrebbe vedere un summit la settimana prossima in cui dare una nuova accelerata. Avete sentito la voce, l'opinione, il supporto statunitense, il segretario di Stato Mike Pompeo, vi ho dato conto di quanto, a quanto ammonti quel supporto, almeno un miliardo di euro. Il gioco qual è? Così rispondo anche ad alcuni ascoltatori che scrivono, per esempio, come si fa a unire l'Europa con un progetto infrastrutturale che coinvolge solo una parte degli Stati? Mi sembra un paradosso. È proprio, infatti, non viene chiamato Via dell'Europa o Progetto Iniziativa Europea. È un'iniziativa che vuole collegare tre mari e gli stati. Quali stati? Beh, sono stati, in parte ci sono quelli di Visegrad, ma non solo, 12 stati dell'Unione Europea, che sono in una fascia che potrebbe essere, per usare un'espressione forse un po' prosaica, tirata per la giacchetta, diciamo, dalla parte russa. E gli Stati Uniti hanno ovviamente un grossissimo interesse a arginare, a isolare quell'aspetto, e che va a unire nell'idea di questa iniziativa anche tre mari in alcuni casi un po' negletti dal punto di vista dei fiorenti commerci. Sto pensando al Baltico, che forse non esprime tutto quello che potrebbe, così come il Mar Nero, e infine l'Adriatico con la presenza della Croazia. Con Alessandro Aresu è venuto il momento di aprire un altro capitolo, che è quello forse più immateriale, più ineffabile, perché l'integrazione digitale dei paesi è una delle sfide principali. Ecco, i 12 paesi della Three Seas Initiative come stanno lavorando su questo punto, se lo stanno facendo? Non lo stanno ancora facendo in modo forte, però uno degli elementi di marchio di questi paesi, penso proprio all'Estonia di cui abbiamo sentito, è la capacità digitale, la capacità di digitalizzazione, e uno degli interessi fondamentali degli Stati Uniti, espresso anche dal segretario di Stato Pompeo, è quello della costruzione di una cosiddetta clean network, quindi diciamo una rete onnicomprensiva dedicata alle reti, alle loro apparecchiature, al cloud, ai cavi, che è clean nella prospettiva statunitense, perché esclude i cinesi, insomma, partendo di quella crescita della consapevolezza da parte degli Stati Uniti dell'avanzamento cinese di cui parlavano anche gli ascoltatori. Quindi io credo che sarà uno degli elementi di cui tenere conto, quanto questi progetti infrastrutturali andranno a caratterizzare anche le reti e le infrastrutture digitali. Naturalmente, perché si ragioni in questo orizzonte, dobbiamo parlare di un impegno economico molto più elevato rispetto a quello che caratterizza attualmente la Three Seas Initiative. Ma dal mio punto di vista, l'interesse da parte degli Stati Uniti che queste aggregazioni costituiscano un sentire comune geopolitico di sbarramento digitale nei confronti dell'avanzata cinese è sicuramente consistente e lo rimarrà. Certo, e state ascoltando la voce di Alessandro Aresu, direttore scientifico della Scuola di Politica e consigliere scientifico di Limes. Un'ultima domanda per passare a quello che secondo molti è il competitor, l'antagonista, quello grande però, il peso massimo, cioè la Belt and Road Initiative, le nuove vie della seta. A che punto siamo? Perché a inizio puntata davo conto di come, complice la pandemia del Covid-19 e un mancato rientro sui pagamenti, sui debiti di alcuni paesi, vi sia stato un forte stallo, comunque una forte riduzione nei progressi di questa grande iniziativa. È segno di un, come dire, di un cedimento del colosso cinese? Allora, direi che è segno di un cedimento dell'iniziativa all'interno della grande strategia del colosso cinese. Mi spiego, il Partito Comunista cinese è ben disposto a buttare ai rovi la Belt and Road Initiative se la Belt and Road Initiative non è lo strumento adatto per esercitare la loro influenza. Quindi quello che sta succedendo adesso è che alcuni progetti sono in stallo, diciamo dal 30% al 40% dei progetti complessivi, e c'è un rebranding delle vie della seta in relazione soprattutto al digitale e alla salute, alla collaborazione in quei settori. Ma diciamo l'interesse della Cina nel primato tecnologico mondiale, ovviamente nel consolidamento della capacità commerciale, è superiore a, diciamo, la carica retorica che è stata data alle vie della seta. Quindi quello che vedremo è un po' meno retorica sulle vie della seta, ma questo non deve farci pensare che se i cinesi parlano meno delle vie della seta e se le vie della seta non funzionano, diciamo, la Cina è spacciata, perché comunque non è così. Sì. E le parole di Alessandro Aresu molto molto molto chiare, forse ha reso anche noi giornalisti nella narrativa e nel descrivere questo gigantesco progetto infrastrutturale siamo stati sedotti in qualche modo, complici i fasti del passato, anche lo stesso lessico scelto dal regime cinese, abbiamo immaginato qualcosa che avrebbe ridisegnato il mondo. Adesso invece forse è il momento di ridimensionare anche nel racconto quello che sta accadendo, ma ripeto, complice il Covid e non solo, queste grandi infrastrutture devono fare i conti con questi fortissimi imprevisti. Grazie mille intanto per essere stato con noi, Alessandro Aresu, direttore scientifico della Scuola di Politiche, consigliere scientifico di Limes. Ricordo il suo ultimo libro, Le potenze del capitalismo politico, La nave di Teseo. Aresu, buona giornata e buon lavoro. Grazie mille a voi, grazie. Intanto vi segnalo, per dare anche una dimensione più strettamente economica, perché è vero che queste infrastrutture ridisegnano anche, non soltanto potenzialmente, l'Europa, i rapporti con la Cina, però per stare sull'ambito prettamente economico, il Fondo Monetario Internazionale ha emesso un rapporto dove dice che i paesi della Three Seas Initiative devono investire dal 2 al 6% del proprio PIL nei prossimi 10 anni per raggiungere il livello di infrastrutture dell'Europa occidentale. E questo è indicativo, allora, diciamo, al di là della... dei proclami piuttosto pomposi, questa incredibile opera che dovrebbe unire i tre mari, è evidente che c'è un ritardo, ci sono delle zone che non hanno la stessa operatività, produttività e potenza economica dell'Europa occidentale, e proprio per questo motivo, per evitare che si scatenino ancora di più gli appetiti di potenze ritenute antagoniste, avete sentito l'interesse degli Stati Uniti per questa iniziativa. 349-238-6666, c'è qualcuno che punta il dito contro la Cina, così a prescindere, diciamo. Qualcun altro articolo un po' meglio, il messaggio che francamente non è certo gioioso. Mi auguro e spero che quando passerà questa pandemia, questa Europa possa sfaldarsi per sempre. Stiamo vedendo un'Europa divisa, fallita, malata, non dal virus, ma malata di rigore. Questa non è l'Europa, è un insieme di lobbisti. E così conclude un ascoltatore che sembra piuttosto scorato. Ripeto, attenzione, questa non è un'iniziativa solamente europea, ma anzi globalmente europea, è un'iniziativa di alcuni 12 membri dell'Unione Europea che tentano di ridare nuova vita con delle nuove arterie, proprio per far scorrere linfa vitale in una zona che è lì cuscinetto, perché l'Europa dell'Est guarda in faccia quelli che sono altri attori, potenze molto più potenti, scusate la ripetizione, di noi. Lasciamo quelle vie, quelle che dovrebbero essere costruite da qui a pochi anni, andiamo sulle strade, quelle italiane, e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Rileggere il mondo con occhi diversi, complice una serie di iniziative, la Via della Seta, ma anche quella dei Tre Mari, che promettono di connetterlo sempre di più, flussi di persone, flussi finanziari, flussi, perché no, anche di armi, grandi opere infrastrutturali che permettono il passaggio del gas, per esempio, o del petrolio, aeroporti e città che diventano sempre più hub, connettori, una gigantesca rete che ridisegna proprio le mappe. Lo dicevo all'inizio di questa trasmissione, la vecchia cartografia forse conviene, non dico buttarla via perché è sempre un peccato, però forse ripiegarla per un attimo e metterla in soffitta e guardare gli occhi con lenti e mappe diverse. Di queste cose si occupa, ma in particolare del futuro delle città, Filippo Bignani, che è un ricercatore all'Università SUPSI di Lugano, e in particolare l'area di ricerca è quella di LUCI, cioè Labor, Urbanscape e Citizenship, sostanzialmente si parla di lavoro, paesaggio urbano e cittadinanza. Filippo Bignani, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno Giampaolo e buonasera agli ascoltatori. Allora, parliamo del ruolo precipuo delle città, perché andando a guardare quello che è la Belt and Road Initiative, vengono collegate dei porti e delle città che sono delle vere megalopoli a tutti gli effetti. Invece la Three Seas Initiative, di cui abbiamo parlato a lungo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, in realtà va a connettere quelle che non sono in realtà grandissime città, grandissime metropoli. Ecco, certo. Come potrebbe impattare e cambiarle? Cioè, un mondo sempre più connesso e fatto di flussi, come trasforma le città? Questa è la domanda in ultima istanza. Filippo Bignami. Sì, ecco, anzitutto prometto che forse l'audio non è dei migliori perché non ho un collegamento ottimale. Dunque, venendo alla sua domanda, come diceva prima Arezzo, che mi ha preceduto, in questo senso gli stati non sono infiniti, ma è necessario ragionare e immettere nel ragionamento riguardo a questo quadro il concetto di multiscalarità. Cioè, se una volta eravamo abituati a ragionare in modo lineare, adesso siamo in un mondo che si è estremamente complessificato, è estremamente articolato, ha interconnessioni estremamente difficili da leggere. Questo già avvisa che chi ci dà letture semplicistiche è da ascoltare sempre con molta cautela. Ma andando avanti, appunto, questa multiscalarità ci obbliga a ragionare con prismi osservativi più complessi. E quindi questo ci dice che queste anche iniziative, queste reti, queste aggregazioni fanno parte di questa multiscalarità sovranazionale, ma anche, anche sottonazionale o infranazionale, ossia l'ordine westfaliano, così come noi l'abbiamo sempre conosciuto e come noi abbiamo sempre ragionato, è messo alla berlina sotto certi aspetti dall'irrompere di fenomeni della globalizzazione. Sì. Questo ci pone di fronte alla necessità di ragionare con scalarità sovranazionali, e ne è l'esempio questo Crisis Initiative e tante altre, sì, reti che si stanno formando, ma anche infranazionali, ossia ci sono una serie di studiosi famosi, probabilmente la più conosciuta e famosa è Saskia Sassen, che forse anche al grande pubblico suona come nome, che già da tempo preconizzano che l'ordine dello Stato-Nazione lascia il posto, o meglio, viene affiancato da un ordine basato su grandi hub che si fondano sulle città. Sì. Questo sì, naturalmente non vuol dire, come dicevo giustamente Arezzo, che gli stati siano finiti, ma che sono attraversati da dinamiche diverse ed è necessario metterle nel campo strutturato d'azione del nostro ragionamento se vogliamo capire un po' meglio il presente, insomma, dove ci non c'è dubbio, è quella l'ambizione, diciamo, che sommessamente proviamo ad abbracciare in questa puntata in Nessun Luogo Lontano. Grazie anche a lei, Filippo Bignani, lo ricordo, ricercatore Università SUPSI di Lugano, Svizzera. Un ascoltatore scrive: la prima volta che non sono d'accordo con lei, bontà sua, a dire che Trieste sia una megalopoli mi sembra fuori luogo. Così Daniele, forse mi sono spiegato male, io dicevo esattamente il contrario. Dicevo che mentre la Belt and Road Initiative va già a tracciare un filo rosso, a collegare quelle che sono grandi metropoli, megalopoli, non è affatto così, anzi tutto il contrario per la Three Seas Initiative. E comunque Trieste non ne fa parte, perché l'Italia non è dentro la Three Seas Initiative. Con Filippo Bignani invece però vorrei cercare di esplorare quelli che sono i rischi di questa nuova connettività, estrema connettività. Che cosa vuol dire? Che Pechino, Dubai, Washington sono tremendamente più vicine fra di loro. È tutto buono, è tutto oro che cola, o c'è qualche problema nel collegare così, in maniera così forte, così violenta, realtà così diverse? Allora, questi fenomeni di iperconnettività e sostanzialmente potremmo dire anche per globalizzazione sotto certi aspetti hanno sicuramente degli effetti positivi, perché mettono più persone in grado di accedere alla tecnologia, quindi più persone di usare la tecnologia, ma a fianco di questi aspetti e anche sviluppano delle aree, ma io metterei anche l'accento su un rischio di ragionare in termini tecno-ottimistici, cioè la tecnologia offre indubbiamente delle opportunità, ma anche ha dei rischi insiti proprio nell'uso di essa. E inoltre vorrei dire che proprio i fenomeni della globalizzazione vanno, quindi questa gestione di flussi, questa gestione di mobilità, sì, questa gestione di dati deve essere guardata anche con attenzione, perché proprio lei mi chiedeva degli esempi. Cioè, se non gestiti bene, generano anche delle disfunzionalità. Mm. In questo senso, per esempio, Bignami, ci può fare un esempio concreto? Sì, glielo faccio subito. Ad esempio, noi abbiamo lavorato sullo sviluppo di mega eventi in aree urbane. E quindi lo sviluppo infrastrutturale, nel caso ad esempio di Rio de Janeiro, le posso citare questo esempio, la metropolitana, che doveva essere un esempio brillante e fulgido di sviluppo da un punto di vista di mobilità alla portata di tutti, invece alla fine è stata fatta nell'area litoranea, sostanzialmente dalla parte nord fino a Leblon, quindi che collega aree già sostanzialmente sviluppate. Quindi è stata fatta una grande opera infrastrutturale, ma lasciatemi dirlo in termini rotti, sì, per mancanza di tempo, dove non serviva proprio, è chiarissimo è chiarissimo il concetto che ha fatto passare anche sinteticamente Filippo Bignami. Bisogna sì collegare le città, e questo è il futuro, città-stati collegati fra loro, grandi hub, ma bisogna farlo bene, sembra una banalità, altrimenti si vanno a duplicare delle posizioni, si vanno a svantaggiare chi è già svantaggiato e così via. Torneremo ancora una volta sul tema, ne sono certo, ma siamo quasi in chiusura e quindi voglio prendermi un po' di tempo, perché sennò sapete che c'è quella voce che ci caccia in malo modo, per ringraziare e salutare Filippo Bignami, ricercatore alla Università di Lugano SUPSI, esperto proprio in ridisegno urbano e cittadinanza proprio delle città. Filippo Bignami, buona giornata, grazie mille, buon lavoro, alla prossima. Grazie, grazie a lei e grazie agli ascoltatori, buonasera. Vale Bernardi, che facciamo? Ci congediamo così, sì, dai. Via. You're fired. Tanto poi il 3 novembre questa sigla andrà cambiata, perché insomma è un po' vecchia. Un ringraziamento a tutta la squadra di Nessun Luogo, ma soprattutto a voi. L'appuntamento è domani, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente, da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.